24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. In apertura le presidenziali francesi con il ballottaggio di domani. I sondaggi, tanti e diversi, dicono una cosa sola: vincerà Hollande. Ma la forbice tra i due candidati alla presidenza continua a restringersi. Il distacco tra François Hollande e Nicolas Sarkozy, che solo qualche giorno fa era tra le 8 e le 10 lunghezze, adesso si è ridotto a 4 punti. Secondo il sondaggio dell'istituto IFOP per Paris Match, il socialista vincerebbe infatti con il 52% dei voti, mentre il presidente uscente ne raccoglierebbe il 48%. Poco prima l'istituto Ipsos aveva dato ad Hollande il 52,5% dei consensi contro il 47,5% di Sarkozy. Lo scontro tra Nicolas Sarkozy e il candidato socialista François Hollande per la corsa all'Eliseo è alle battute finali e nei pronostici dei bookmaker Hollande sembra sempre vicino alla vittoria. Sarkozy non avrà né il supporto dell'estrema destra capeggiata da Marine Le Pen, che ha annunciato l'astensionismo, né quello del centrista François Bayrou, per il quale la campagna elettorale di Sarko è stata violenta, antieuropea e troppo orientata a destra, e per questo motivo ha deciso di sostenere Hollande. François Hollande, c'est le choix que je fais. S'est prononcé de manière claire sur la moralisation de la vie publique dans notre pays, il aura fort à faire. Sarkozy vede così allontanarsi definitivamente una rimonta apparsa subito difficilissima. Durante una trasmissione televisiva su Canal Plus ieri sera, il presidente uscente ha ribadito che se Hollande vincerà domenica ne trarrà le conseguenze, ma sulla presa di posizione del candidato centrista ha commentato così: François Bayrou ha il diritto di fare la sua scelta, ma nel 2007 lanciò l'appello a votare contro di me ed io vinsi lo stesso. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Domani si vota anche nella Grecia della crisi, dove si teme un forte astensionismo. Da Atene, Vittorio D'Arolda, al microfono di Enrico Pagliarini. Sono nel quartier generale di Neodemocrazia, il partito popolare che è in testa nei sondaggi per il voto di domenica, dove si apriranno le urne alle 7 di mattina e chiuderanno alle 19. Neodemocrazia è in vantaggio, ma non riuscirà, secondo le proiezioni, ad avere una maggioranza tale da poter guidare il paese da solo. Questo è il vero problema, quindi si apre la possibilità di un governo di coalizione, forse addirittura con gli stessi socialisti del PASOK, e questo rende molto incerto il futuro. Ho parlato con il rappresentante dei rapporti con la stampa, Chrysostomos Bikatsis, proprio in questo momento, che mi ha detto che non si esclude la possibilità, dopo il voto, se ci fosse appunto difficoltà di coalizione, un rientro, un ritorno alle urne nei prossimi 3 mesi. Quindi ci confermi che si vota in una sola giornata? Questo è un elemento importante, perché spesso la Grecia viene vista come paese più arretrato, in questo caso ci batte in termini anche di spreco di risorse. Assolutamente, questo è un risparmio che noi potremmo fare, perché la Grecia ci insegna che si possono aprire le urne alle 7 di mattina, chiudere alle 19 e ad avere i risultati in tempi rapidi, tenendo conto che loro hanno naturalmente moltissime isole e tutti devono tornare per problemi appunto di residenza anagrafica nel paese di residenza, e quindi molti devono tornare nelle isole per votare e quindi espletare il loro diritto. È una cosa abbastanza logisticamente complessa, ma riescono a farlo appunto in una giornata sola. E si è votato anche a Londra. Fin dal pomeriggio la squadra di Ken Livingstone, il candidato laburista a sindaco della città, ha ammesso la sconfitta, rassegnandosi alla vittoria del Tory Boris Johnson. Nel resto del paese invece trionfo laburista. Voltiamo pagina. In calo per il 9° mese consecutivo l'attività manifatturiera nell'Eurozona. L'indice manifatturiero PMI ad aprile è sceso infatti a 45,9 punti da 47,7 di marzo. Si tratta del valore più basso negli ultimi 3 anni, il che rappresenta un segnale del peggioramento del clima economico in Europa. L'indice PMI dell'Italia è precipitato a 43,8 punti il mese scorso dal 47,9 di marzo. E anche per quanto riguarda la borsa, non è stata una settimana positiva, ancora cali ieri sui listini del vecchio continente. I dati americani sul mercato del lavoro hanno penalizzato le borse europee, che hanno chiuso con cali tra l'1 e il 2%, una settimana decisamente negativa. Il tasso di disoccupazione si è attestato all'8,2% in linea alle stime, ma il numero dei posti creati è stato inferiore alle attese. Milano ha così perso l'1,4%, archiviando l'ottava con un ribasso di quasi il 6%. Londra, Francoforte e Parigi hanno perso l'1,9% in attesa, attesa quest'ultima nel weekend dell'esito delle elezioni presidenziali. Positiva solo la borsa di Madrid. A Piazza Affari sono crollati i petroliferi, con il greggio che ha ceduto oltre il 4% a quota $98 al barile. Saipem e Tenaris hanno mostrato una flessione superiore ai 4 punti percentuali. In netta flessione anche la Galassia Fiat, con il settore auto che in Europa ha segnato meno 3,6%, Fiat ha chiuso a meno 3,6%, Industrial a meno 3,7% ed Exora a meno 2,7%. Per contro ha chiuso in positivo Finmeccanica più 1,3% dopo lo scivolone della vigilia, in attesa di novità sulla cessione degli asset. La migliore su FTSE MIB è stata di Asorin, in rialzo del 3% circa. Livia Zancaner da Radio Corpo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il leader dell'opposizione ucraina, Yulia Tymoshenko, ha accettato di essere curata in un ospedale del suo paese. Lo ha annunciato un medico tedesco che l'ha visitata in carcere. Intanto il caso Tymoshenko continua ad alimentare un aspro confronto diplomatico nel cuore dell'Europa. Kiev minaccia ora Berlino di ritorsioni economiche nel caso in cui saltasse l'accordo di associazione con l'Unione Europea, come paventato dal ministro degli esteri tedesco nei giorni scorsi. Lo ha detto a Spiegel Online il numero 2 del partito del presidente ucraino Yanukovych, Leonid Kosciara. Adesso andiamo in Africa. L'Etiopia conta di svilupparsi ancora a tassi superiori al 10% nei prossimi 5 anni e ha grandi potenzialità anche in settori finora poco sviluppati come quello industriale, che dovrebbe raggiungere oltre il 22% del prodotto interno lordo entro 5 anni. I settori strategici su cui puntare, secondo il titolare della Farnesina Giulio Terzi, sono quelli dell'energia, delle infrastrutture, dell'agroindustria e dei servizi. Molti degli imprenditori che mi hanno accompagnato in questa missione in Etiopia, tra gli altri Eridania, Salini, Trevi e Geox, rappresentano realtà importanti sul piano della collaborazione economica tra i nostri due paesi, e c'è un impegno a sviluppare ulteriormente un partenariato che è già significativo. Dall'Etiopia sentiamo il ministro Terzi al microfono di Gigi Donelli. Nessun paese come l'Italia conta per l'Etiopia, e l'Italia può avere un ruolo guida nel Corno d'Africa. Queste sono le parole testuali che mi ha espresso il ministro degli esteri. Sono concetti sui quali è tornato il primo ministro Meles Zenawi. Un ruolo che si estende dagli affari di politica e di sicurezza, l'impegno che abbiamo in Sudan, l'impegno col quale stiamo cercando anche di mantenere vivo, fin dove possibile, un dialogo con l'Eritrea ed anche un canale di comunicazione fra Eritrea e Etiopia, ma un'azione che si estende alla dimensione economica. Ci sono delle prospettive molto considerevoli in settori come le infrastrutture, le materie prime, la trasformazione di prodotti di base, l'agroindustria, le costruzioni delle grandi opere del settore idroelettrico, quindi tutta una gamma di attività che viene vista dalle autorità etiopiche come un elemento di rilancio proprio di un partenariato economico di questo grande paese, 80 milioni di abitanti, un ruolo veramente cruciale, sempre più rilevante, ad essere veramente un motore non soltanto di questa parte dell'Africa ma di tutto il continente. Sì. In chiusura parliamo di viaggi e di una guida inglese ormai famosa in Europa e nel mondo. So much of it is just really off limits unless you're crazy. And you know, I went to a very La voce è quella di Tony Wheeler, fondatore insieme alla moglie Maureen della Lonely Planet. Tutto nacque con il loro primo itinerario low cost, l'Hippy Trail, negli anni 60, dall'Inghilterra all'Asia. Attraversarono l'Europa, passarono per l'Italia, arrivarono a Kabul, poi si spinsero fino al Pakistan, all'India, al Nepal e infine, partendo da Bali, terminarono il loro viaggio in Australia. Si divertirono così tanto che decisero che quello sarebbe diventato il loro lavoro, viaggiare e pubblicare guide di viaggio. Si festeggia quest'anno un doppio anniversario per la Lonely Planet. La pubblicazione 40 anni fa del primo libro in inglese, intitolato appunto Across Asia on the Ship, e i 20 anni dalla pubblicazione del primo volume in italiano. Per l'occasione, il marchio delle guide più alternative del mondo ha ripubblicato in italiano il diario di viaggio del fondatore, una guida degli itinerari più belli del mondo intitolata Grandi Viaggi. Giorgia Mennoni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Grazie a Filippo Reggi in regia, a voi per l'ascolto, un saluto da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.